America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, continuiamo in questa passeggiata lungo il 2010, una passeggiata dei ricordi di alcune delle trasmissioni così più significative, raggruppate su alcune tematiche che sono state significative per l'anno. Abbiamo parlato molto d'America, oggi vorrei parlare di Italia. Ci sono state trasmissioni molto diverse che vi ho preparato, vi ho fatto ascoltare, in cui si ripercorreva un po' quello che il nostro paese faceva a New York e faceva in America, per esempio le mostre di Bob Wilson o quelle di Greenway, che sono state organizzate nel contesto di Federlegno, di una manifestazione sul design italiano. Ci sono state altre iniziative simili che in qualche modo riproponevano o proponevano il nostro paese. Però anche qui vorrei avere un punto di riferimento simbolico ancorato a una caratteristica che gli americani adorano in relazione a noi italiani, al nostro paese, e cioè la gastronomia. È stato un anno particolare questo per la gastronomia italiana. Beh, perché? Perché intanto ha aperto Italy, questo straordinario gourmet gastronomico sulla Quinta Strada, Broadway, all'angolo con la 23, e io vi ho fatto dei reportage che adesso vi propongo, dove ha partecipato anche il sindaco Bloomberg. America 24, 2 settembre. I like pasta marinara arrabbiata. Eccolo il sindaco Bloomberg che confessa qual è il suo piatto preferito della cucina italiana: spaghetti marinara all'arrabbiata con un po' di salsiccia sopra e un po' di pinoli grattugiati. Sentiamo cosa ne pensa Chiamparino. Ma anche a me la penna all'arrabbiata sono il piatto, e anche perché è uno di quelli che so cucinare anch'io. Dopodiché io credo che se il sindaco Bloomberg ci dedicasse un po' di tempo in Piemonte, lo potremmo convincere che ci sono tanti nostri piatti che sono meglio. Sempre nel contesto di Italy, mi ricordo di aver ospitato in studio Oscar Farinetti, il patron, diciamo, di Italy, e Marco Rosi, un grande produttore alimentare italiano, soprattutto di prosciutti, e vi faccio ascoltare questo piccolo duetto fra loro quando così si beccano un pochettino parlando di gastronomia italiana. America 24, 31 agosto. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Nazionale, presidente di Italy, si è presentato al mercato americano in compagnia di Mario Battaglia, di Abbiastianic, due dei più importanti nomi della gastronomia qua in America. Dicevo, un investimento di 25 milioni di dollari, 60 milioni di dollari di fatturato come obiettivo. Farinetti, ci parli del progetto e dell'idea? Beh, intanto l'idea, che è la cosa principale, anzi forse proprio perché è in un momento di crisi che bisogna darsi da fare, tirarsi sulle maniche, impegnarsi di più. Intanto New York resta la capitale del mondo, su questo non vi è nessun dubbio, e a New York abbiamo delle chance enormi, secondo me, per interpretare la cucina italiana come vogliamo noi, quindi con le sue tradizioni, con la sua storia, con le sue culture, certi di essere compresi. E poi ci siamo messi al centro di New York, nel cuore di Manhattan. Ecco, c'è una punta polemica in questo straordinario, enorme negozio. Quanti metri quadri abbiamo detto sono in totale? In totale sono 7.000. Ecco, 7.000 metri quadri, quindi enorme davvero. Sembrano prevalere i prodotti piemontesi. E allora qui c'è un po' di parzialità, o no? Dunque, intanto incominciamo a dire che circa il 50% dei prodotti sono italiani e il 50% dei prodotti sono americani. Siamo venuti negli Stati Uniti e 2 anni che lavoriamo a cercare i prodotti di maggiore eccellenza qua in USA, in molti casi superiori ai nostri, per esempio le farine e il latte. Poi, per quanto riguarda i prodotti italiani, è rappresentata bene tutto il paese, chiedo scusa, ma è lampante, essendo nato in Piemonte, vissuto tutta la vita in Piemonte, poi soprattutto tra le colline del Barolo, Italy, nasce in Piemonte, che è... il Piemonte è ben rappresentato, lo ammetto, ma credo che lo meriti anche. Ecco, ma la cucina piemontese è superiore ad altre cucine italiane o no? Se lei chiede a qualsiasi italiano la graduatoria delle cucine, cominciano tutti con la propria regione. Se mi chiedono qual è la cucina più importante, non la migliore, più importante tra le cucine italiane, credo che non vi sia dubbi e sia acclarato da quasi tutti i gourmet italiani che la cucina piemontese è la cucina più importante tra le cucine italiane. E l'Emilia Romagna, i romagnoli? Beh, intanto i romagnoli sono i più grandi uomini italiani. Lei sa che è la regione che, in cui ammiro di più l'umanità italiana. Amo la cucina romagnola, la trovo un po' piccola, di poche cose, e soprattutto la trovo troppo burrata. Marco Rosi, cosa ci dice? Come allora, risponde? Beh, innanzitutto la risposta è sicuramente la cucina piemontese è una grande cucina, poi rimane lontana dalla nostra, ma questo è un altro tema. Ci sono alcuni piatti piemontesi straordinari che nella cucina moderna magari hanno un pochettino più di pesantezza. Dico bene, Oscar? Dico una cosa sbagliata? Le carni che avete sono strepitose. Sì, allora secondo me voi avete due robe straordinarie. Avete il più grande prosciutto italiano e quasi del mondo insieme agli spagnoli, e poi avete il formaggio più buono del mondo. Per quanto riguarda i vostri primi, che sono molto buoni, per quanto riguarda la pesantezza, ragazzi, ci ficcate dentro un bel po' di burro, vero? Oggi un burro più chiaro quello che mettiamo, più leggero. Allora vabbè, insomma, abbiamo risolto la diatriba, ma vorrei passare al business, perché qui c'è un altro elemento, perché insomma, Marco Rosi ha aperto, ha fatto un importante investimento anche lui in una salumeria ristorante che in qualche modo riproduce lo stesso concetto di Italy, perché si mangia, però c'è anche il bancone, si possono comprare i salumi, si possono comprare i prodotti, diciamo più in piccolo. E allora vi fate concorrenza, ci veniamo a fare concorrenza a guarda, New York? Sentiamo. La prima volta che sono venuto parecchio tempo fa a fare l'analisi di mercato a New York, a cercare di capire, il primo posto dove sono andato a mangiare è la salumeria Rosi di Parma Cotto, e mi sono reso conto che Italy l'avevano già fatto loro a New York, perché in fondo la formula è la medesima. Hanno solo un problema, che hanno 30 posti a sedere e credo 3.000 tentativi al giorno di riuscire a mangiare da loro, per cui io sfrutto la loro amicizia per trovare sempre un tavolo, ma non è così per tutti. Da Italy ne abbiamo 600 di posti a sedere, e quindi prevedo che magari ci sia qualche possibilità di più anche per la gente comune, ma la cosa che mi fa piacere è che comunque potranno mangiare i salumi dell'amico Rosi nella stessa maniera e con la stessa bontà. Quindi non rischiamo di farci concorrenza aprendo... No, abbiamo fatto un ottimo accordo. A me, io sono andato a cercarli io perché adoro il loro prodotto. E... allora, sì, noi abbiamo l'orgoglio di essere stati la prima industria, non i primi italiani, la prima industria che ha aperto sul mercato più importante del mondo un negozio salumeria ristorante che sta avendo, grazie a Dio, un ottimo successo. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Oscar Farinetti e di poterne diventare partner in questa sua straordinaria iniziativa. Quindi insomma, tutto è bene quel che finisce bene, ci siamo messi d'accordo sulle cucine. Vince l'Italia, caro Dottor Platero. Vince l'Italia in America. Per chiudere, i fratelli Bruno, questi fratelli che sono arrivati con la valigia di cartone e lo spago, quattro fratelli che hanno creato un piccolo impero di ristoranti a New York fra i meglio frequentati della città e devo dire anche con cucina fantastica, al punto che una volta, senza dirgli da dove venivano, proprio Oscar Farinetti gli ho preparato questi spaghetti spunziatielli, come dice appunto Gerardo Bruno, che sono una delle specialità di questi ristoranti, li ha adorati, ha detto ma questo piatto è fantastico, i fratelli Bruno. America 24, 17 novembre. Antonio, siete arrivati tutti insieme o lei è stato il primo? Sì, sì, tutti insieme siamo arrivati. Abbiamo fatto una sbarcata da Salerno. Ma sbarcata da Salerno, in nave o in aereo? In aereo. Siamo arrivati sì, in aereo, sì, perché la nave ormai, la Michelangelo già era andata via, non c'era più. E c'erano parenti qui, un genitore o qualcuno? Sì, c'avevamo le nostre zie e c'avevamo il mio nonno e la mia nonna che ci hanno accolto in una maniera molto bella. Il giorno dopo mi hanno portato a lavorare, immaginate. Questi erano gli albori, Gerardo. Come avete fatto questo balzo dalle origini al 2010 quando il sindaco Bloomberg ed altri vengano. Tra l'altro mi pare che proprio ieri è stato il sindaco Bloomberg qui, è vero? Sì, gli abbiamo cucinato i capelli d'angelo con una salsa di pomodoro piccante, con salsiccia e pignoli arrostiti. No, Gerardo, questa non me la deve dire. No, siete voi responsabili allora. Lei lo sa, gli americani hanno sempre un modo per cambiarti la ricetta e devi farli contenti, se no ci rimangono male, sennò... Se voi foste rimasti in Italia, pensate che avreste potuto avere lo stesso successo, non so, a Milano o a Roma come a New York? No, non penso, perché ancora oggi in Italia non penso che le opportunità siano divise in modo uguale per tutti. Si immagini un ragazzo di 24 anni come me, un altro di 25, un altro di 20, un altro di 16 che vanno in banca e chiedono un prestito di $400,000 perché hanno intenzione di fare un ristorante. Lei pensa che c'è oggi come oggi una banca in Italia che sia propensa a prestare $400,000 senza garanzie a quattro giovani che hanno un'idea? Ci sarebbero mille altre idee, approfondimenti da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, Hit Parade 2010, siamo alla canzone numero 3. Kanye West, beh, diciamolo, non ha passato un momento facilissimo, eppure gli è servito anche per ispirazione. Da My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Power. I'm living in that 21st century. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Kill them, that the world's ours. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.